Benvenuti. Oggi ci addentriamo in un tema davvero cruciale, direi quasi epocale: l'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla guerra. Sì, un impatto profondo. Esatto, non stiamo parlando solo di, sai, nuovi giocattoli tecnologici, nuove armi e basta. È un cambiamento radicale. Proprio così. Investe la strategia, le decisioni, forse proprio l'essenza del conflitto. Per questa nostra analisi ci basiamo su estratti dal libro Come l'intelligenza artificiale sta cambiando la guerra, di Kai Pei Jay. Un testo molto interessante. Sì. L'obiettivo, quindi, è capire come l'IA stia diventando potenzialmente l'arma definitiva, insomma, un passaggio dalle spade, per così dire, agli algoritmi. Ecco, hai toccato un punto fondamentale. È importante capire che l'IA non è solo un'altra innovazione, come, che so, la polvere da sparo o il nucleare. Quelli erano potenziamenti degli strumenti. Certo. L'IA invece cambia proprio il tessuto della guerra. Il vantaggio strategico si sposta. Non è più solo chi ha l'arma più grossa, ma chi? Chi decide più in fretta, chi ha le informazioni migliori. Esatto. Non è un caso che Putin abbia detto quella frase, no? Chiunque guidi l'IA governerà il mondo. Fa capire la portata strategica che le viene attribuita. Decisamente. E allora, questa velocità, questa informazione, come si traduce in pratica? Si sente parlare spesso di kill chain, la catena di operazioni militari. Sì, la sequenza. Trovare l'obiettivo, fissarlo, decidere e agire, e poi valutare. Ecco, l'IA sta comprimendo questa catena in modo pazzesco, giusto? Pensiamo ai sensori. Un'infinità di sensori. Elettro-ottici, infrarossi, radar, cyber. Raccolgono una mole di dati enorme. E l'IA che fa? Li mette insieme. Praticamente sì. Li fonde, li analizza in tempo reale. Ti dà una consapevolezza della situazione, una situational awareness, che prima era semplicemente impensabile. Capisco. E questa capacità di, diciamo, vedere e capire più in fretta, beh, cambia tutto a livello strategico. In che modo? Pensa all'analisi predittiva. L'IA può provare ad anticipare le mosse del nemico, oppure ottimizzare l'uso delle risorse, dove mandare droni, quali munizioni usare. Permette simulazioni di battaglia iperrealistiche. Per testare piani, immagino. Esatto. Però, attenzione, c'è un rischio. Si chiama bias dell'automazione. Cioè? Cioè la tendenza a fidarsi ciecamente dell'algoritmo. L'ha detto il computer, quindi è giusto. Senza magari quel vaglio critico umano che serve sempre. Quindi la supervisione umana resta fondamentale. Per ora sì. Soprattutto per le questioni etiche e per l'imprevisto. L'algoritmo fa quello per cui è programmato, ma la realtà è spesso più complessa. E questa supervisione diventa ancora più critica quando si passa dalle analisi all'azione vera e propria, alle armi autonome. Esatto. Droni che identificano e colpiscono da soli. Robot terrestri, navi senza pilota. Abbiamo visto esempi concreti, tipo in Ucraina. Droni che, anche se disturbati elettronicamente... Sì, anche sotto jamming. Sono programmati per continuare la missione, per raggiungere l'obiettivo in modo autonomo. È una capacità notevole e, diciamo, anche preoccupante. Immagino. Ci sono altri esempi che mostrano questa accelerazione. Guarda, Israele ha dichiarato di usare sistemi IA per generare liste di obiettivi in pochissimo tempo. Efficienza altissima, certo, ma sorgono dubbi sulla verifica umana. Quanto si riesce a controllare davvero? Appunto. L'Ucraina, poi, è diventata quasi un laboratorio a cielo aperto. Droni, IA, contromisure elettroniche, condivisione di intelligence quasi istantanea. E le grandi potenze? Stati Uniti. Lì ci sono progetti come Project Convergence, per creare un ecosistema militare tutto interconnesso via IA. E poi ci sono le start-up, tipo Palantir per l'analisi dati, Anduril per i sistemi autonomi. Stanno spingendo tantissimo. Tutto questo ci porta dritti al nodo etico. È accettabile che sia un algoritmo a decidere chi vive e chi muore? Bella domanda. È il dilemma centrale. Queste macchine non hanno morale, non hanno empatia. Come gestiscono il contesto, le sfumature? Non le gestiscono. Almeno non come un essere umano. E poi c'è il problema della responsabilità. Se un'arma autonoma sbaglia, colpisce civili, di chi è la colpa? Del programmatore? Del comandante? Della macchina? Un vuoto legale ed etico enorme. E poi c'è la paura che tutto questo renda la guerra più facile. Esatto, che abbassi la soglia per usare la forza letale. Se è un drone a farlo, magari sembra meno grave, più distante. Un rischio terribile. E tutto questo si inserisce in una competizione globale. Una vera e propria corsa agli armamenti a Stati Uniti, Cina, Russia. Stanno investendo massicciamente. Sì. La supremazia futura non sarà solo questione di carri armati o aerei. Sarà in gran parte una questione di algoritmi, di dati, di capacità di integrare l'IA ovunque. Quindi, per ricapitolare un po' quello che emerge dal lavoro di Jace, l'IA sta rivoluzionando la guerra in termini di velocità, intelligence, autonomia. Porta vantaggi strategici, certo, ma... Ma apre dilemmi etici giganteschi. Esattamente. Questioni che non possiamo assolutamente ignorare. E forse, per chiudere, possiamo lasciare una domanda aperta. Mentre questa corsa all'IA militare accelera, dove troveremo l'equilibrio tra l'efficienza, anche spietata, della macchina e il necessario controllo umano? E poi, chi scriverà le regole per questa guerra sempre più automatizzata? Le leggi internazionali riusciranno a tenere il passo della tecnologia? Domande fondamentali su cui riflettere.